Ad alta voce, Massimo Popolizio legge I vecchi e i giovani di Luigi Pirandello. Quella visita alla famosa stanza del generale, detta per antonomasia il Camerone, era una grazia veramente particolare concessa a Dianella. Mauro Mortara, che ne teneva la chiave, non vi lasciava entrare mai nessuno. E non l'uscio soltanto, ma anche le persiane dei due terrazzini e della finestra stavano sempre chiuse, quasi che l'aria e la luce, entrandovi apertamente, potessero fugare i ricordi raccolti e custoditi con tanta gelosa venerazione. Mauro ogni volta girava un po' per la stanza, si fermava innanzi a questo o quel mobile decrepito dall'impiallacciatura gonfia e crepacchiata, poi andava a sedere sul divano imbottito di una stoffa verde, ora ingiallita, con due rulli alla base di ciascuna testata. E lì, con gli occhi socchiusi, lisciandosi con la piccola mano tozza e vigorosa la lunga barba bianca, pensava e più spesso ricordava, assorto, come in chiesa, un devoto nella preghiera. Mauro non voleva che si riattasse. Poco più gli restava da vivere e voleva che tutto lì rimanesse com'era. Sapeva che morto lui, nessuno si sarebbe preso più cura di custodire quel santuario della libertà. E il soffitto allora poteva anche crollare o essere riattato. Intanto, ogni anno, al sopravvenire dell'autunno, egli si recava sul terrazzo a rassettare e fissar le lastre di bandone con grosse pietre, e sul pavimento del camerone collocava concole e concoline sotto gli stillicidi. Le gocce gli piombavan sonore ad una e quel ten-tan cadenzato pareva gli conciliasse il raccoglimento. Dianella, entrando, ebbe subito come un urto alla vista inattesa di una belva imbalsamata che nella penombra pareva viva là, nella parete di fronte, presso l'angolo, con la coda bassa e la testa volta da un lato, felinamente. «Ah, che paura!» esclamò, levando le mani verso il volto e sorridendo di un riso nervoso. «Non me l'aspettavo!» «Che?» «Leopardo!» «Bello!» E Dianella abbassò una mano a carezzare quel pelame variegato. Ma subito la ritrasse tutta impolverata e notò che alla belva mancava uno degli occhi di vetro, il sinistro. «Un altro compagno a questo!» riprese Mauro. «L'ho regalato al museo dell'istituto, a Girgenti. Non l'avete mai veduto? C'è una vetrina mia al museo, accanto al leopardo. Una iena, bella, grossa, e sopra un'aquila imperiale. Sulla vetrina sta scritto «Cacciati, imbalsamati e donati da Mauro Mortara». Ma venite qua prima, voglio farvi vedere un'altra cosa». E la condusse davanti al vecchio divano sgangherato. Appese alla parete, sopra il divano, erano quattro medaglie, due d'argento e due di bronzo, fisse in una targhetta di velluto rosso ragnato e scolorito. Sopra la targhetta era una lettera chiusa in cornice, scritta di un minutissimo carattere in un foglietto cilestrino sbiadito. E Dianella lesse: «Amici, le notizie di Francia, il colpo di stato di Luigi Napoleone, regheranno certamente una grave e lunga sosta al movimento per la nostra santa causa e ritarderanno, chissà fino a quando, il nostro ritorno in Sicilia. Vecchio come sono, non so, né posso più sopportare il peso di questa vita a desio. Penso che non sarò più in grado di prestare il mio braccio alla patria quando essa, meglio maturati gli eventi, ne avrà bisogno. Vien meno, pertanto, la ragione di trascinare così un'esistenza incresciosa a me e dannosa ai miei figli. Voi, più giovani, questa ragione avete ancora. E però vivete per essa e ricordatevi qualche volta con affetto del vostro Gerlando Laurentano». Dianella si volse a guardare il Mortara, che, tutto ristretto in sé, con gli occhi ora strizzati, il volto contratto e una mano sulla bocca, si sforzava di soffocare i singhiozzi rompenti. «Non la rileggevo più da anni», mormorò quando poté parlare. Tentennò a lungo la testa e poi riprese a dire. «Ma fece questo tradimento. Scrisse la lettera e si vestì di tutto punto, come dovesse andare a una festa da ballo. Ero in cucina, mi chiamò. Questa lettera a Mariano Gioeni, alla Valletta. C'erano alla Valletta gli altri esiliati siciliani che erano stati tutti qua, in questa camera, prima del 48, al tempo della cospirazione. Mi pare di vederli ancora. Don Giovanni Ricci Gramitto, il poeta, Don Mariano Gioeni e suo fratello Don Francesco De Luca, Don Gerlando Bianchini, Don Vincenzo Barresi, tutti qua, e io sotto a far la guardia. Ah, basta. Portai la lettera. Ma come avrei potuto supporre? Quando ritornai a Bormula, lo trovai morto. Sarà ucciso? Domandò intimidita Dianella. Col veleno, rispose Mauro. Non aveva fatto neanche in tempo a tirar sul letto l'altra gamba. Com'era bello. Conoscete Don Ippolito? Più bello. Diretto, con un paio d'occhi che fulminavano. Un San Giorgio. Anche da vecchio, innamorava le donne. Richiuse gli occhi e a bassa voce recitò la chiusa della lettera che sapeva a memoria. Voi più giovani questa ragione avete ancora, e però vivete per essa e ricordatevi qualche volta con affetto del vostro Gerlando Laurentano. Vedete? E vissi io come lui volle. E qua, sotto la lettera che mi feci restituire da Don Mariano Gioeni, ho voluto appendere come risposta le mie medaglie. Ma prima di guadagnarmele, sedete qua, non vi stancate. Flaminio Salvo ritornò tardi la sera. Un tumor gaio, come ogni qualvolta, prendeva una grave decisione. A cena si scusò con Don Cosmo della sfuriata della mattina. Disse che ne aveva fino alla gola delle innumerevoli seccature che gli erano diluviate da quelle zolfare d'Aragona e che aveva deciso di chiudere. «Così giovereranno un po' per piacer mio i signori zolfarai, e avranno più tempo d'assistere alle prediche dei loro sacerdoti umanitari. Mangino prediche. Bello il Vangelo umanitario, Don Cosmo, eh? Letto su una pagina sola. Se voltassero pagina... Ah, ma se ne guardano bene. E hanno ragione. Ma la loro ragione è qua!» E si toccò il ventre. «Andate a far loro intendere che la politica doganale, seguita dal governo italiano, è stata tutta una cuccagna per l'industria e gli industriali dell'Alta Italia. È una rovina spaventosa per il Mezzogiorno e per la nostra povera isola, che da anni e anni l'aumento delle tasse e di tutti i pesi è continuo il ribasso dei prodotti, che col prezzo a cui è disceso lo zolfo, non solo è assolutamente impossibile trattarli meglio, ma è addirittura una follia seguitar l'industria. Io non avevo chiuso le zolfare per loro, per dar loro almeno un dozzo di pane. Scioperano. Tante grazie. Vuol dire che possono fare a meno di lavorare. Tutti a spasso. Allegria!» «La vita!» sospirò Don Cosmo, con gli angoli della bocca contratti in giù. «A pensarci bene, lo zolfo, le industrie, questa tovaglia qua damascata, questo bicchiere arrotato, il lume di bronzo, ecco tutte queste minchionerie sulla tavola, e per la casa, e per le strade, piroscafi sul mare, ferrovie, palloni per aria. Siamo pazzi, parola d'onore. Sì, servono. Servono per riempire in qualche modo questa minchioneria massima che chiamiamo vela, per darle una certa apparenza, una certa consistenza. Ti giuro che non so in certi momenti se sono più pazzo io, che non ci capisco nulla, o quelli che credono sul serio di capirci qualche cosa e parlano e si muovono come se avessero veramente un qualche scopo davanti a loro, il quale poi, raggiunto, non dovesse a loro stessi apparir vano. Io comincerei, signor mio, a rompere questo bicchiere. Poi butterei giù la casa e ricominciando da capo, chissà. Voi dite che quei disgraziati la ragione ce l'hanno qua? Beate loro, signor mio. E guai se si saziano. Dove la vede più voi la ragione? E dove ce l'ho più io? Flaminio Salvo e Dianella erano affacciati alla finestra. La notte era scurissima. Le stelle profonde che pungevano e allargavano il cielo non arrivavano a far lume in terra. «Tu non hai niente, Dianella, proprio niente da dire a tuo padre?» domandò il Salvo senza guardarla, con tono mesto, come se con l'anima vagasse lontano assai da quella finestra. «Io?» fece Dianella, incerta e quasi sbigottita. «Niente. E che potrei dirti?» «Niente, dunque», riprese il padre. «Nessun piccolo segreto? Niente, eh?» «Sono contento, perché tu, povera figliola mia, purtroppo hai soltanto me, preso da tante brighe. E oggi che giornataccia! Sai che manca a molti il senso dell'opportunità. Non dico che avrei risposto di sì se la domanda mi fosse stata rivolta in un altro giorno, in un altro modo, ma avrei risposto di no, almeno con più garbo. Ecco, dopo aver parlato con te.» Dianella temette, ascoltando queste parole calme e lente del padre, che questi potesse udire il violento martellare del cuore di lei, sospeso in un'aspettazione angosciosa tra l'impetuoso ribollimento di tutto il sangue per le vene. «Mi hanno chiesto, e tu mi intendi», seguitò il Salvo, voltandosi a spiarla negli occhi, «e io, certo che la mia buona figliola, così savia, non poteva aver fissato neanche per un momento la propria attenzione su un giovane, buono sì, ma pure per tante ragioni non adatto né degno, è preso in quel momento proprio inopportuno. Ho rifiutato senz'altro. Vediamo un po'. Non indovini?» «No», rispose più col fiato che con la voce Dianella. «Non indovini proprio», insistette il padre, sorridendo come conscio della tortura che le infliggeva. «Adesso, ma provate.» «No, non saprei», balbettò lei. «E allora bisogna che te lo dica io», concluse il padre, «perché tu sappia regolarti. Il De Vincendis.» «Ah!» esclamò Dianella con uno scatto di riso irresistibile. «Quel povero Ninì! Quel povero Ninì!» ripeté il padre, scrollando il capo e sorridendo anche lui. «Dunque, te l'aspettare?» «No, ti giuro!» s'affrettò a rispondergli Dianella con vivacità. «E m'ero accorta, sì!» «Ma t'aspettavi qualche altro, eh?» tornò a domandare il padre, pronto, guardandola più acutamente. Dianella allora si impuntò e sostenne lo sguardo del padre con fredda fermezza. «No, e ti ho detto di no.» Il sospetto che il padre con quel discorso avesse voluto tenderle un'insidia era divenuto certezza. «Buonanotte», aggiunse Dianella freddamente, ma appena sola si nascose il volto tra le mani e pianse. Le parve che il padre si fosse divertito a straziarle il cuore come un gatto col topo. «Oddio, ma perché? Perché così cattivo anche con la propria figlia, quando gli sarebbe stato così facile essere buono con tutti?» Scoprì il volto. Come un sogno le parve allora la pace smemorata della campagna, lì presente, all'umido e blando albore lunare. e un fresco rivo inatteso di tenerezza, e le scaturì dal cuore, e altre lacrime le velarono gli occhi. Ah, era pur bello lo spettacolo di quella profonda notte lunare sulla campagna, con quegli alberi antichi, immobili nel loro triste sogno perenne, con quei monti laggiù che chiudevano cupi contro il cielo il mistero delle ere più remote, con quel tremulo, limpido, assiduo canto dei grilli che, sparsi tra le erbe dei piani, pareva persuadessero all'oblio di ogni cosa. Tra quei grilli e quegli alberi e quella luna e quei monti non era forse un concerto misterioso a cui gli uomini restavano estranei? Tanta bellezza non era fatta per gli uomini che chiudevano stanchi a quell'ora gli occhi al sonno. Sarebbe durata tutta la notte e non veduta più da nessuno nella solitudine della campagna quando anche lei avrebbe chiuso la finestra. Forse voleva questo la nottola invisibile che strideva svolandoli innanzi, offesa e attratta dal lume. Voleva che ella non vi si turbasse più oltre con la sua veglia il notturno e misterioso concerto della natura solitaria. Né inviti agli elettori stampati a caratteri cubitali su carta d'ogni colore, né alcuna animazione insolita per le vie tortuose della vecchia città. Eppure il giorno fissato per le elezioni politiche era imminente. Ma il tedio da gran tempo aveva soffiato in bocca alla ciarlataneria e questa aveva perduto la voce. La scala per dar l'assalto ai muri le si era marcita e rotto il pentolino della gola. S'era camuffata decorosamente da prete la ciarlataneria a dirgenti e raccolta guardinga a collo torto andava per via nascondendo tra le pieghe del tabarro il mazzocchio della gran cassa cangiato in aspersorio. I cittadini sotto a quel travestimento la riconoscevano bene, la lasciavano andare, fare. La rispettavano anche, perché non seccava nemmeno con troppe prediche. Prestava denaro poi sotto mano, a usura, ma ne prestava, pubblicamente, con molti carati del salvo e con altri di soci minori. Aveva aperto una banca popolare cattolica, all'interesse consentito da Santa Madre Chiesa. I pubblici uffici, prefettura, intendenza delle finanze, scuole governative, tribunali davano ancora un po' di movimento, ma quasi meccanico, alla città. Altrove ormai urgeva la vita. L'industria, il commercio, la vera attività, insomma, si era da un pezzo trasferita a Porto Empedocle, giallo di zolfo, bianco di marna, polverulento e rumoroso. In poco tempo divenuto uno dei più affollati e affaccendati empori dell'isola. Ma anche là, la sovrabbondanza dello zolfo, che per le condizioni malproprie con cui si svolgeva l'industria, l'ignoranza degli usi a cui quel minerale era destinato e dei profitti che se ne potevano ricavare, il difetto di grossi capitali, il bisogno o l'avidità di un pronto guadagno, erano cagione che quella ricchezza del suolo, che avrebbe dovuto essere ricchezza degli abitanti, se ne andasse giorno per giorno ingoiata dalle stive dei vapori mercantili inglesi, americani, tedeschi e francesi, lasciando tutti coloro che vivevano di quell'industria e di quel commercio con le ossa rotte dalla fatica, la testa vuota e gli animi inveleniti dalla guerra insidiosa e feroce con cui si eran conteso il misero prezzo o lo scotto o il nolo della merce da loro stessi rinvilita. A Girgenti solo i tribunali e i circoli d'assise davano da fare veramente, aperti com'erano tutto l'anno. Chi poteva curarsi in tale animo delle elezioni politiche imminenti? E poi perché? Nessuno. aveva fiducia nelle istituzioni, né mai l'aveva avuta. La corruzione era sopportata come un male cronico, irrimediabile, e considerato ingenuo o matto, impostore o ambizioso, chiunque si levasse a gridarle contro. In quei giorni, più che delle imminenti elezioni politiche, gli sfaccendati parlavano del duello del candidato Ignazio Capolino con Guido Veronica. Per l'intromissione violenta di Roberto Auriti, la questione cavalleresca s'era complicata. Guido Veronica aveva accettato subito la sfida del Capolino, aveva chiesto però qualche giorno di tempo per provvedersi di padrini. Ed era arrivato da Palermo il deputato Corrado Selmi con un altro signore che si diceva famoso spadaccino. Roberto Auriti, intanto, non potendo battersi col Preola e non volendo che altri vendicasse della torpe offesa la memoria del padre, aveva preteso di battersi lui per primo col Capolino. I padrini di questo e di Veronica stesso si erano opposti a tale pretesa. A nome del Capolino, quelli avevano lealmente dichiarato di deplorare l'articolo del Preola pubblicato di furto nel giornale. Squalificato così dai suoi stessi partigiani il vero autore dell'offesa, peraltro riconosciuto indegno di scendere sul terreno e ormai cacciato via da Girgenti, Lauriti non aveva più da domandare altra soddisfazione. E un solo duello doveva aver luogo perché l'affare si terminasse lodevolmente. Quello tra il Veronica e il Capolino per l'aggressione da questo patita sulla pubblica via. Troppo giusto. L'avvertenza tanto dibattuta aveva appassionato vivamente la cittadinanza, tra la quale d'improvviso s'erano scoperti tanti calorosi dilettanti di cavalleria. E la passione soprattutto s'era accesa per l'intervento di un uomo così noto come il Selmi e per le arie spagnolesche e provocanti dell'altro testimonio del Veronica, spadaccino. Ma dal canto suo, il campione paesano Ignazio Capolino s'era affidato anche lui in buone mani a un certo D'Ambrosio, un parente della moglie, che sapeva tener bene la spada in pugno e non si sarebbe lasciato imporre né dal prestigio di Corrado Selmi né dalla spocchia di quell'altro messere. E lui solo, perché l'altro testimonio di Capolino faceva ridere Nini De Vincentis. Figurarsi. Povero Nini, gli era stato tirato proprio per i capelli. Sciabole, sangue, lui che era una damigella, un San Luigi col giglio in mano. Sarebbe svenuto certamente assistendo allo scontro. Che idea quel Capolino andare a scegliere proprio Nini, come se non ci fossero stati altri più adatti in paese. Ma forse lo aveva scelto il D'Ambrosio apposta, per una bravata, per rispondere ironicamente alla chiamata dello spadaccino dalla parte avversaria. Nini ignorava ancora il rifiuto reciso opposto dal Salvo alla domanda di matrimonio che, costretto dal fratello Vincenzo, gli aveva fatto rivolgere da Monsignor Montoro. Il Capolino lo aveva forzato ad accettare quell'ufficio per lui terribile di secondo testimonio al duello, dandogli a intendere che il Salvo lo avrebbe molto gradito. Per Bacco, doveva sì o no sfatare una buona volta la fama di virginale timidezza che s'era fatta in paese? Uomo, uomo, bisognava che si dimostrasse, uomo! Del resto, pancia e presenza, non si voleva altro da lui. Ma che pancia? Dove aveva la pancia, Nini? Fino e dritto come un bastoncino. Via, era un modo di dire pancia e presenza, composto, elegantissimo, come un vero zerbinotto di Parigi, avrebbe fatto una splendida figura. Tutti e quattro i padrini s'erano recati nella mattinata alla villa del principe di Laurentano a Colimbetra, dove il duello avrebbe avuto luogo per i concerti opportuni e la scelta del terreno. Nessuno lì si sarebbe attentato a disturbare lo scontro. Il principe, la mattina seguente, si sarebbe recato a Balsamia per la presentazione con la sposa, come era già convenuto. E subito dopo la partenza del principe, si sarebbe fatto il duello.